aperta, sì. Tocca mi cuerpo, sì. Baila la fiesta, sì. Tocca mi cuerpo, sì. Baila la fiesta, sì. Besami boca ardiente. Tocca mi cuerpo, sì. La noche está caliente. Baila la fiesta, sì. Besami boca ardiente. Tocca mi cuerpo, sì. La noche está caliente.